si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'altra cronaca di Radio 24, quella che non parla della crisi economica o dei guai della politica, ma dove invece i protagonisti sono gli italiani con le loro imprese, grandi e piccole, che ci dicono che ce la possiamo fare, si può per esempio, ed è questo il tema da cui partiamo oggi, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Si può fare la lotta all'evasione fiscale. Avrete sentito qualche giorno fa i dati dell'Agenzia delle Entrate, delle Fiamme Gialle, boom di segnalazioni da parte dei cittadini italiani ai call center, al 117, segnalazioni di evasione fiscale o di violazione fiscale, con crescite rispetto all'anno precedente dal 100 al 200%, cioè sono triplicate in alcuni casi le telefonate, le segnalazioni. 800 24 00 24, cari ascoltatori, oggi vi chiediamo a voi, cittadini onesti, contribuenti, cosa avete chiamato? Prima di tutto, avete fatto la vostra segnalazione? Cosa avete segnalato? Lo scontrino al bar o al ristorante, la fattura del dentista, del professionista, oppure il vicino di casa con la barca e il SUV che però ha i figli, non so, iscritti all'asilo nido comunale e voi invece no, dovete pagare quello privato. 800 24 00 24. Qual è la vostra ricetta per combattere l'evasione fiscale? Avete sentito di ieri la notizia in Grecia? Il governo è pronto a varare una misura shock: esci dal ristorante senza pagare il conto se non ti fanno lo scontrino o la fattura e nessuno ti può inseguire. Cosa succederebbe in Italia se proponessimo una cosa del genere? 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Adesso però qualche notizia della settimana. Allora, le notizie da cui partiamo sono due. Una, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, e c'è il lieto fine. Il cittadino marocchino immigrato clandestino eroe ha ottenuto il permesso di soggiorno. Ebbene sì, Abdou Abderrahim aveva salvato un bimbo di 5 anni, i suoi genitori finiti con l'auto in un canale nella notte di qualche giorno della settimana scorsa, era il 17 ottobre per l'esattezza, e adesso per alti meriti sociali il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri ha concesso a lui un permesso di soggiorno di 6 mesi. Lui, ricorderete, dopo aver fatto il salvataggio era scappato all'arrivo dei carabinieri perché non in possesso di regolare permesso di soggiorno, e poi insomma si era mossa un po' di attenzione attorno a questo caso, e adesso per fortuna è arrivato un bel gesto di clemenza e di solidarietà. L'altra notizia di questa settimana è il ritorno, anche se adesso con le piogge forti in Liguria e in tutta Italia, sembra strano dirlo, ritorna alla normalità un anno dopo a Vernazza, nelle Cinque Terre. Insomma, è passato un anno dall'alluvione, morirono anche delle persone. Per fortuna, con un anno di lavoro alle spalle, adesso si può dire di essere tornati alla normalità. C'è stato molto lavoro, tutto bene. Ricordiamoci però di fare qualcosa per evitare che questo accada ancora in futuro, e bisogna lavorare molto sul territorio italiano per il rischio del dissesto idrogeologico che è sempre purtroppo alle porte. 800 24 00 24, tra poco a bomba con il tema le tasse. Minchia, signor tenente, che per scovare qualche magagna siamo saliti sull'Alfa Grigia, presa la strada della montagna, fino al chilometro 41 nel dolomitico bellunese, perché Cortina è ben frequentata da chi non lesina sulle spese. Abbiamo estratto l'armamentario e fatto multe senza pietà a chi considera il 740 una remota eventualità, e sotto imponibile scrive niente. Minchia, nulla tenente, lei che è convinto che uno scontrino sia un incidente di poco conto quando ti rigano il macchinino che costa circa 90.000, però lei dice che ha i conti in rosso. È noto che contemporaneamente sa di tartufo e c'ha 5 case, 2 di campagna, 2 in riva al mare e 1 affacciata sul Colosseo, come quell'altro che ci abitava dentro a quell'attico che era suo, lui però non ne sapeva niente. Minchia, nulla tenente, amante russo. L'iniziativa è stata presentata qualche giorno fa a Cittadella, sulle note di questa parodia di Elio e le Storie Tese, una canzone sul fisco. Qualche giorno fa a Cittadella l'iniziativa, il primo scontrino in Italia, almeno credo che sia così, dove scontrino fiscale, dove si può partecipare ad una lotteria. E dovrebbe insomma entrare in funzione, o è già entrato in funzione, adesso lo chiederemo ad uno dei suoi ideatori, che è Ivan Brignani della New World Printing di Monza. Buongiorno. Buongiorno Alessio. Eccoci qua. Allora, prima di tutto un giallo, perché io ho letto sul Mattino di Padova questa notizia, presentata questa iniziativa, però se l'ha accaparrata un'altra azienda, cioè l'idea l'avete avuta voi, però la sta realizzando un'altra azienda. Vi siete... Che è successo? No, non è corretto. Diciamo che noi siamo coloro che detengono il brevetto. Ok. Stiamo collaborando con un'azienda. Con l'altra azienda. Veneta, sì. E diciamolo, è la Polyroll di Galliera Veneta? Esatto, perfetto. Perfetto, così abbiamo detto tutto. Insomma, l'idea ci avevano pensato in tanti, no? Legare lo scontrino fiscale che mettono i bar, i ristoranti, chiunque, a delle iniziative che possono incentivare insomma, gli utenti a richiedere lo scontrino, no? E attirare magari anche gente nei negozi. Di che cosa si tratta esattamente? Cosa avete fatto voi di preciso? No, diciamo che utilizziamo una filosofia, no? Se è difficile punire l'illegalità, è molto più facile premiare la legalità. Certo. Allora, con questa idea noi abbiamo deciso di creare dei gratta e vinci dietro gli scontrini fiscali, inserendo degli sconti. In poche parole, tutti vincerebbero. Sì. Ci sono degli sconti di tre categorie, A, B, C. Noi abbiamo deciso di impartire con le associazioni commercianti, nel senso che sono i commercianti sono quelli che hanno pochi mezzi per attingere delle promozioni. Sì. Allora abbiamo creato questi scontrini con queste... con questa scontistica, con delle locandine, il commerciante decide lui lo sconto A, lo sconto B, lo sconto C, a che cosa corrisponde. Ah, quindi voi avete creato tre classi di sconti, uno vince in base allo scontrino A, B, C, e poi sta al commerciante stabilire qual è l'incentivo, qual è il premio. Esattamente. Mm. E però, quindi si vince sempre, i commercianti dovranno stare attenti, farsi due conti, perché dalla caramella, non so, fino a sconti magari di qualche percentuale, anche significativa, altrimenti non c'è l'incentivo, perché sennò poi l'idea è bella ma rischia di sgonfiarsi in mano, o no? Diciamo che c'è una tutela per il commerciante, nel senso che dietro troveranno tutti uno sconto, questo è vero, però lo sconto viene applicato a una spesa minima e viene applicato alla spesa successiva, nel senso che io ritiro lo scontino, mi trovo uno sconto di un euro che applicherò la prossima volta che ritorno in questo negozio. Perciò sicuramente c'è il doppio vantaggio, che l'esercente incrementa la clientela e il cliente sicuramente si trova un vantaggio a tornare nello stesso negozio. Senta, ma in Italia ci sono delle regole, delle leggi che insomma regolano questo tipo di cose? Si può fare tranquillamente? Vi siete naturalmente, credo, informati? Siete tra i primi o siete i primi addirittura a farlo? No, siamo i primi. Il sistema della scontistica non prevede autorizzazioni ministeriali. Quindi si può fare tranquillamente. Come i saldi, mentre se lo scontrino viene abbinato ad un premio, allora è tutta un'altra faccenda, ci sono delle autorizzazioni ben precise. Quindi il premio non c'è, c'è solo lo sconto. Se, qualora voi voleste introdurre anche il premio, una vera e propria lotteria, come forse, credo, avviene in altri paesi, in particolare qualcuno ci suggeriva in Cina, tempo esatto, fa. Esatto. Ecco, quindi è vero, le risulta, in Cina esiste questo. Anzi, noi abbiamo fatto esattamente il contrario, invece che la Cina copiare noi, abbiamo deciso noi di copiare la Cina. Con una piccola particolarità, sì, che applicare il sistema di gratta e vinci sugli scontrini fiscali, c'è un tipo di carta termica che ha delle problematiche non indifferenti. Sì. E io e mio fratello William ci siamo cimentati con degli esperimenti presso poco chimici, diciamo, abbiamo trovato l'alchimia per poter far applicare questo inchiostro e farlo anche grattare. E in Cina addirittura, o a Taiwan, lo applica il governo, che è in grado di poter mettere dietro addirittura dei premi in denaro. Quali comuni, in quali zone, avete già degli ordini per questi scontrini che state producendo, o stiamo parlando solo di progetti? No, il prodotto è già partito almeno 3-4 mesi fa. Ovvio che noi siamo una microimpresa, non abbiamo ancora utilizzato grandi mezzi di promozione, però viene già distribuito in Puglia, nel Lazio, in Sardegna, Abbiamo già avuto degli ottimi riscontri anche a livello di aziende di franchising, oltre che a livello di aziende commercianti. Quali categorie di negozi, tanto per avere un'idea? Cioè, voi sapete poi dove vanno a finire questi scontrini, oppure si perdono nel mare magnum delle migliaia di attività commerciali che ci sono? Diciamo che è adatto a tutti i commercianti. Noi lavoriamo con delle aziende che fanno foto digitali in franchising, ci hanno ordinato parecchi kit. Addirittura il mio più vecchio cliente, diciamo, è una pescheria che vende pesce e dice che ha avuto un bel incremento. Anzi, se posso pronunciarmi, l'unico neo di questo prodotto, così almeno lo diciamo tutte, mi dicono, ma adesso i clienti me lo chiedono tutti lo scontrino, continuamente. Cioè, può essere visto è proprio come quello neo per da cui parte è stato fatto. Sì. Sembrerebbe un obiettivo raggiunto, in poche parole. Insomma, invece l'esempio di qualche... Cioè, non so se voi date anche l'indicazione, il consiglio ai commercianti o lasciate piena libertà di decidere quali sconti, insomma, che tipo di percentuale di spesa si può vincere, insomma, per capire. Allora, faccio un esempio. Sì. In un rotolino ci sono mediamente 300 scontrini. Sì. Noi abbiamo inserito volutamente 250 scontrini di categoria C. Poi abbiamo 40 scontrini di categoria B e solo 10 di categoria A. Questo permette al negoziante che nella maggior parte dei clienti stabilire uno sconto abbastanza basso. Simbolico quasi. Esatto. Dopo includere un medio sconto e poi mettere... Sulla categoria A, a quel punto, insomma, il 10 su 300 è una percentuale bassa, ma ovviamente nelle lotterie, insomma, in tutti i concorsi, diciamo, è così... E si può vincere, poi lì dipende da commerciante, nella locandina l'ingresso al negozio stabilisce cosa. Quindi, cari ascoltatori, fate caso se nei negozi dove entrate c'è questa locandina, perché, insomma, può essere un incentivo in più. Che dire, Ivan Brignani, New Old Printing di Monza, bella idea, bravi, noi un po' di promozione ve l'abbiamo fatta, speriamo che venga in mente e voglia ai commercianti di farsi avanti, fare degli ordini, così, insomma. Grazie Alessio, a lei e alla sua trasmissione. Grazie. E allora 800 24 00 24 per intervenire in diretta tra poco, perché insomma il tema di oggi è questo. Vi chiediamo, cari ascoltatori, voi avete partecipato a questo boom di segnalazioni di evasioni fiscali, violazioni fiscali segnalate qualche giorno fa dall'Agenzia delle Entrate delle Fiamme Gialle, che parlano di incremento del 200% di segnalazioni. 800 24 00 24, ma c'è chi invece di mettere alla berlina gli evasori vuol mettere in buona luce gli onesti. No, pensavo che ripartisse la musica, invece no, abbiamo il prossimo ospite che saluto con piacere, Ernesto Puddu, buongiorno. Che è ingegnere, lavora alla Tiscali, è, come si capisce anche dal cognome, sardo di Cagliari, ed è socio fondatore del sito nonevado.it. Esatto. Dove la filosofia è un po' quella che stavo cercando di spiegare io. Ci sono già dei siti, il vostro è un pochino più recente in questa, diciamo, tendenza, in questa ondata, no? Dove si possono segnalare gli evasori, ce ne sono parecchi, si vedono le mappe con tutti gli evasori oppure scontrini non rilasciati, eccetera. Voi invece avete scelto una filosofia opposta. Esatto, la nostra idea è un'altra, la nostra è quella di fornire un servizio. L'idea è quella di segnalare, di dare uno strumento alla rete per segnalare persone che sono oneste, in modo che se io ho bisogno di un idraulico, invece di andare alla cieca, cerco prima sul nostro sito una persona che sicuramente mi rilascerà la fattura o quant'altro, così da non arrivare a situazioni imbarazzanti del tipo ma fattura, con fattura o senza, cose del genere, insomma. Come sta andando a livello di segnalazioni il sito, principalmente poi che cosa viene segnalato, quali tipi di categorie, insomma, di attività, dentista, il parrucchiere? Sì. Abbiamo circa 2.500 segnalazioni in tutta Italia, le segnalazioni principalmente vertono sul canale ristorazione. Però abbiamo dei picchi tra i professionisti, per esempio tra i dentisti, cosa inaspettata, devo essere sincero. Inaspettata perché tutti sanno che molto segnalati. Puddu, dico inaspettata perché tutti hanno avuto esperienza dal dentista con o senza fattura, eccetera, eccetera. Quindi invece ci sono molte segnalazioni di dentisti onesti. Quindi se uno volesse scegliere, che ne so, un posto da andarsi a fare curare i denti, sapendo che oltre a curarti i denti non evadono il fisco, va sul vostro sito e trova tutto. Esatto. E cerca poi? La città di interesse, la zona di interesse, e poi scrive dentista e troverà una lista di professionisti. Insomma, iniziative come questa sarebbero state, come il vostro sito nonevado.it, impensabili, io credo, solo qualche anno fa, almeno insomma, mi viene da pensare questo. Non si parlava tanto di questa questione dell'evasione fiscale, adesso negli ultimi anni sarà per colpa della crisi che ci ha fatto toccare il fondo del barile, sarà per colpa, non lo so, di una maturità forse degli italiani che sta arrivando. Non lo so, su questo ci può essere qualche dubbio, ma c'è un'evoluzione in questi anni su questi temi? Secondo lei l'Italia sta andando verso il meglio? Secondo me sì, secondo me c'è una maggiore coscienza civica, come sta crescendo. Io voglio sperare che sia così, sinceramente, che non sia semplicemente una reazione alla crisi, una reazione al fatto che stiamo vivendo un pochino peggio di come vivevamo 10 anni fa, che dico, insomma. Secondo me sta crescendo una maggiore coscienza civica. Questo internet penso che sia diciamo il canale che favorisce questa cosa qui. Sempre più giovani, ovviamente sono sempre meno quelli che si informano solo con la carta stampata, per nessuna, sono sempre più quelli che si informano in rete. In rete troviamo notizie di qualità o meno, però le troviamo tutte. Punto è quello, fondamentalmente. Tra l'altro, mi diceva prima di fare l'intervista che lei è anche socio di un'attività commerciale e quindi sa di cosa si parla quando parliamo di pagare o non pagare le tasse. Esattamente. Esatto. Infatti le prime critiche che ci sono state mosse quando abbiamo fondato il sito è che ci dicevano voi non siete imprenditori, non sapete cosa dire avere a che fare col fisco e quant'altro. E noi rispondevamo sempre un'azienda sana non deve aver bisogno di usare il non pagare le tasse come linea di credito, non è possibile, quell'azienda evidentemente non è gestita bene e il mercato gli sta dicendo che deve chiudere. Ora io sono dentro lì, gestisco un locale di installazione, so cosa vuol dire, abbiamo margini bassissimi, il costo del lavoro è enorme, però paghiamo tutto fino all'ultimo centesimo, non ci sta rimanendo niente, siamo all'inizio, vabbè, però sicuramente il nostro obiettivo è quello di andare inutile, e se non lo faremo ci daremo una scadenza e a un certo punto si chiuderà. Speriamo ovviamente di no. Nonevado.it, il sito di cui stiamo parlando. Puddu, lei cosa pensa? L'ultima domanda che le voglio fare è questa: quando sente dire che insomma non pagare le tasse è, per esempio, l'ha detto l'Associazione Commercianti di Bologna qualche giorno fa, un'autodifesa perché sono troppo alte, oppure perché i servizi che lo Stato rende non sono proporzionali alle tasse? Lei che ne pensa? Allora, se uno vuole fare opposizione fiscale, la chiamo un po' così, no? Deve rinunciare ai servizi che di cui usufruisce ogni giorno. Cioè il bambino non deve più andare a scuola nella scuola pubblica, non deve più usare le autostrade, non deve più usare le... Ma non è concepibile. Mi fanno ridere queste persone, anzi, in realtà mi fanno un po' arrabbiare queste persone qua, perché se sei in un paese accetti tutto, cioè se ti succede una cosa brutta, ti accendi scampi, finisci in ospedale e non paghi niente in Italia, parliamoci chiaro. Insomma, lei suggerisce a chi vuol fare lo sciopero fiscale di fare anche l'astensione dall'usufruire dei servizi che lo Stato rende, e questo è una provocazione, però risponde ad un'altra provocazione. Sì. Sono parlate con soldi pubblici. Ci dobbiamo fermare qua. Grazie Ernesto Puddu, fondatore di nonevado.it. Dunque, se volete trovare attività commerciali, professionisti e quant'altro che vivono nel rispetto della legalità fiscale, andate, li trovate, potete sceglierli e quindi premiarli e valorizzarli, perché normalmente si mette alla berlina chi non paga le tasse, ma chi le paga rimane nell'ombra e non viene mai valorizzato. Questo invece è l'obiettivo del sito nonevado.it. Ci ha chiamato Paolo da Torino, buongiorno. No, io non ho chiamato nessuno, volevo soltanto far rilevare una cosa. Anche due. Prima si parlava degli scontrini o delle ricevute, per esempio, nei ristoranti. Sì. E nella stragrande maggioranza dei casi, quando uno scontrino o soprattutto una ricevuta fiscale in un ristorante non viene emessa, è su richiesta o esplicito consenso del cliente che con questo spera, o anzi senza sperare, ottiene il risultato di avere uno sconto. Quindi questo è perché la dicotomia evasori non evasori in questo paese, secondo me, ha fatto un po' la sua epoca, perché appena è possibile chiunque può, quando si trova in una condizione che glielo consente, cerca di risparmiare, qui si criminalizzano sempre le categorie, e questo fa sì che se uno cerca di non essere evasore, si trova in una categoria in cui la concorrenza diventa insostenibile. Volevo solo dire Non ho capito il legame tra la prima parte del suo discorso. Certo che tutti cercano di risparmiare, questo è vero, è comprensibile, ma è sbagliato, perché poi, come diceva giustamente il nostro amico Puddu, se uno non vuol pagare le tasse, allora non dovrebbe neanche mandare i figli all'asilo o andare all'ospedale a farsi curare. Grazie. Perché bisogna sempre valutare il livello di pressione, cioè se la maggior parte delle persone paga molto di più. Paga di ma questa valutazione non è che la possiamo fare io e lei, e poi ci sono quelli onesti che le pagano le tasse, allora quella diventa concorrenza sleale. Quindi non capisco la sua conclusione, Paolo. Però scusi, sì, è che questo è contro il discorso Grecia, cioè nel senso, facciamo questo provvedimento demagogico e poi la gente che dovrebbe denunciare la mancata emissione è quella stessa gente che dice al ristoratore: per favore fammi il conto bloccato. Questo è possibile, è tutto è possibile, però non è detto, e vedremo, anzi in Grecia se lo faranno, quello che ho detto magari lo ripeto a beneficio degli ascoltatori che non l'hanno sentito: in Grecia il governo è pronto a varare una misura che è stata definita shock. Te ne vai dal ristorante o dal negozio dove hai comprato senza pagare se non ti fanno la fattura o lo scontrino. Grazie Paolo, non so se abbiamo un altro ascoltatore. No, non l'abbiamo. Allora niente, tra poco con un altro ospite. Esiste la nazionale dei cantanti, esiste la nazionale dei magistrati, addirittura la nazionale degli attori, mancava la nazionale dei disoccupati. Ci hanno pensato i dipendenti della ASA di Castellammonte, siamo in provincia di Torino, un'azienda di servizi che purtroppo è in crisi. E allora loro, per ora vedremo fare cosa esattamente, anche per accogliere dei fondi in beneficenza o per solidarietà con i disoccupati, si sono inventati la nazionale di calcio dei disoccupati. Io saluto Roberto Falletti, che è delegato UIL alla ASA di Castellammonte. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Prima di tutto, adesso ci spiegherà dell'azienda, dell'avvertenza, insomma del difficile momento che state vivendo, però prima le volevo fare i complimenti per la fantasia. Grazie, questo non ci manca, almeno questa ci è restata, nel senso che purtroppo siamo l'unica azienda italiana, penso, a beneficiare della Prodi Bis, un'azienda di servizi di raccolta rifiuti e di termovalorizzazione del riscaldamento a biomassa, che è commissariata da da 2 anni. Abbiamo fatto molte iniziative per cercare di sensibilizzare la politica locale e anche quella regionale per salvaguardare i 238 sì. posti di lavoro della nostra azienda, e l'ultima che abbiamo ideato, che abbiamo pensato, è appunto, penso, quella più la nazionale dei disoccupati. Insomma, almeno non state con le mani in mano, insomma, assolutamente non siamo passivi a questo. E lo scopo veramente, tra l'altro, è raccogliere fondi, no? Lo scopo è raccogliere fondi e dare solidarietà, soprattutto non solo alla sì. nostra crisi, ma ormai penso che, come lei ben ha detto, in Italia ormai molte sono le aziende che sono nelle nostre stesse condizioni, non solo pubbliche, la nostra è pubblica, ma e questo è ancora un altro dato negativo, no? di come il pubblico non è capace a fare il sistema. Vogliamo dare solidarietà alle famiglie, quindi anche raccogliendo dei fondi da destinare poi alle famiglie più disagiate dei disoccupati. Senta, ma avete già esordito? Perché ho letto abbiamo esordito la prima partita contro i nostri politici canavesani locali della provincia di Torino. Abbiamo vinto fortunatamente 6-2. Li avete distrutti sti politici, 6-2. Avevate proprio fame di giocare, sì. Sì, noi adesso andiamo avanti, abbiamo parlato anche con le ex gloria del Torino Calcio, quindi a breve faremo una partita anche con loro e poi cerchiamo di allargare. Chi sono queste due vecchie glorie, ce lo può dire? Annoni, che fa parte della Torino for Disabled, ha un'associazione Onlus dove noi abbiamo raccolto anche dei fondi per questa associazione nella partita di calcio che abbiamo fatto qui a Castellamonte, quella contro i politici locali, dove abbiamo chiesto lui di farci da portavoce con gli altri per cercare di iniziare, no, a fare degli incontri, a far conoscere questa nostra nazionale. Abbiamo un sito anche su Facebook che si chiama la Nazionale dei Disoccupati, stiamo cercando di creare anche un sito, però ecco, chi è l'allenatore della nazionale? Perché qua si gioca, si va in campo, ci vorrà qualcuno che colga. L'allenatore della nazionale per adesso è un nostro collega che ha militato nel Castellamonte quando giocava in Serie D, si chiama Angelino, però è aperto, nel senso che raccogliamo iscrizioni, stiamo raccogliendo adesioni. Ecco, appunto, qualcuno che fosse interessato per creare un movimento. Qualcuno fosse interessato, come le dico, c'è una pagina Facebook che si chiama la Nazionale dei Disoccupati, a breve ci sarà anche un sito, stiamo cercando di raccogliere dei soldi per costruire questo sito e quindi penso che in questa settimana faremo anche il sito. Insomma, noi vi auguriamo che la vostra vertenza si possa sbloccare quanto prima e che magari anche quello che state facendo possa aiutare, insomma, la Nazionale di Calcio dei Disoccupati, creare un po' di dibattito intorno. C'era un po' di gente all'esordio, c'era tanta gente, c'erano anche tante altre aziende che purtroppo, come le dico, in questo canavese, terra dell'Olivetti, dell'indotto Fiat, quindi è una crisi abbastanza ampia nel nostro territorio, no? Prima era una terra di lavoro, oggi purtroppo è diventata terra di, tra virgolette, brutto a dirsi, di disoccupati, quindi sicuramente c'è questo interesse, ma più che altro al di là della partita della nazionale bisogna cercare veramente di costruire un qualcosa di serio che dia un futuro a tante famiglie, non solo alle nostre 238 famiglie di ASA, ma voi vi state lottando per avere il lavoro, per continuare ad avere il lavoro, vi state impegnando per questo e, insomma, non volete cedere alla condizione di futuri disoccupati, ovviamente. Che effetto le fa proprio in questa settimana il ministro Fornero, non so se sa, definito molti giovani ragazzi italiani ciusi? Guardi, il ministro Fornero, è meglio che non dica nulla, nel senso, mi dispiace che la Fornero, oltretutto, è delle nostre zone, è a 20 chilometri da Castellamonte, dove lei abita, non si rende forse ben conto che i giovani, purtroppo, io ho 33 anni, non hanno più la possibilità di rimettersi in gioco, perché non c'è nulla, quindi c'è un vuoto attorno che si crea. Ogni posto di lavoro che viene perso, sia dai giovani che dai meno giovani, perché poi lei parla dei giovani, ma anche quelli che purtroppo noi in azienda abbiamo persone che sono definite i cinquantenni che non trovano proprio più nulla di nulla. Ecco, questi sono i veri problemi che noi cerchiamo attraverso varie iniziative. Abbiamo occupato una diga nel Parco Nazionale del Gran Paradiso simbolicamente, domani faremo un'altra iniziativa altrettanto simbolica, proprio per non abbassare, no, questa guardia, che è quella di dire non si può nello status di oggi essere Roberto, il prossimo impegno calcistico della Nazionale dei Disoccupati quale sarà? L'avete già in mente? Avete già il prossimo impegno calcistico sarà appunto un incontro con le vecchie glorie gravate che dovrebbe essersi nel mese di novembre. Ah, ma coinvolgete anche qualcuno, qualche nome di peso, se ce la fate così? Sicuramente sì, noi ce la mettiamo tutta, poi ovviamente impegni permettendo da parte degli altri, sicuramente attraverso la pagina Facebook comunque ci saranno settimanalmente gli aggiornamenti. Grazie, intanto grazie a lei, insomma, buone partite di calcio, ma anche soprattutto in bocca al lupo per la vostra vertenza. Roberto Falletti, delegato WIL all'ASA di Castellammonte, azienda di servizi che è in crisi. Insomma, siete un po' timidi oggi, cari ascoltatori. Le telefonate arrivano, però non riusciamo a intercettare il campione di quegli italiani che hanno chiamato per evidenziare delle violazioni fiscali o degli evasori, partecipando così al boom di chiamate di cui parlava qualche giorno fa Le Fiamme Gialle. Sentiamo cosa ci racconta Antonio da Napoli. Buongiorno. Buongiorno, senta, sono telefono da Napoli e sono pienamente d'accordo per quanto riguarda il problema fiscale degli scontrini con i vari incentivi. Sì. Io credo che l'italiano fondamentalmente voglia pagare le tasse, le paga tante però in percentuale a quanto guadagna e praticamente si rende conto che quello che paga va nelle tasche dei vari Fiorito, dei vari politici. Antonio, sempre lì. Ma è per forza. Andiamo a parare. Non c'entra niente. Oggi allora, parliamo di cosa? Parliamo, allora, per esempio, di questa iniziativa sugli scontrini. C'è il premio, basta, finisce lì. Non c'entra nulla ai politici. Una volta tanto, Antonio. Comunque, è un'ossessione. Sento male. Noi sentiamo bene, purtroppo. Vabbè, Antonio, grazie. Fermiamoci qua. 800 24 00 24. Non so se avremo tempo per sentire qualche altro ascoltatore. Adesso, nel frattempo, ci trasferiamo al Festival della Scienza a Genova. Mi sorprende ritrovarti sulle scale quando torno a casa, sorpreso di vedermi come se fosse la prima volta e racconto senza freni le mie gioie e i miei dolori e tu mi sorridi e condividi tutto con me. Io ti regalerò ogni singolo risveglio Abbiamo scelto questa canzone di Annalisa Scarrone, che ha partecipato ad Amici, perché è laureata in fisica. Viva Dio, un giovane d'oggi che si distingue nel mondo della musica in questo caso, che però si porta dietro una storia legata alla scienza. Ci sembrava adatto per il Festival della Scienza. Vogliamo parlarne con Monica Marelli, divulgatrice scientifica, autrice, tra l'altro, di C'era una volta un gatto che non c'è... No, com'è? Che non... Scusa, Monica. C'era una volta un gatto che non c'era. Misteri e meraviglie della fisica quantistica. Mi sono intrecciato sul titolo. Un libro di cui parlerai anche a Genova al Festival della Scienza, in corso da due giorni fa fino al 4 novembre. La scienza, questa dimenticata. Sentiamo spesso dire che i ragazzi studiano troppo la letteratura e poco le scienze. Perché la scienza, Monica, invece ci può far bene? Buongiorno a tutti. Effettivamente, allora, in Italia non abbiamo una grande tradizione nella divulgazione scientifica, cioè in Italia siamo famosi per i nostri autori notevolissimi, poeti, eccetera, siamo la culla del diritto, quindi ci manca proprio una tradizione scientifica. A cosa serve studiare la scienza? Io la prima cosa che dico sempre quando vado nelle scuole a incontrare i ragazzi, serve sicuramente per non farsi fregare, per aprire gli occhi, per avere una visione del mondo da un'altra angolazione, da quella che ci propinano normalmente. Cioè spiegati meglio, cos'è che ci propinano normalmente che invece tu proponi di vedere diversamente? Esatto, perché comunque quando uno studia fisica, è costretto a fare un salto in più, a vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra angolazione, per forza. Cioè, in fisica non si può dare nulla per scontato. Io faccio sempre questo esempio, prendiamo la storia di Vanna Marchi. Quante persone ha fregato semplicemente con un'affermazione che di scientifico non aveva niente? Cioè, prendi un bicchiere d'acqua e versaci tutto questo sacchetto di sale, vedi? Se il sale non si scioglie, allora hai il malocchio. Ora, chi ha una minima infarinatura di scienza sa benissimo che è fisicamente impossibile che tanto sale si sciolga in un bicchiere d'acqua. Insomma, la scienza ci può aiutare a stare lontani dai trucchi, dalle scorciatoie, esatto, e dalle baggianate di questo tipo. Esatto, perché ci pone nella posizione di dire: ma sarà vero quello che mi sta dicendo? Ma a me sembra di aver letto un'altra cosa. Quindi serve per aprire la mente. Serve per conoscere quello che ci succede. A me dispiace quando vedo che nella maggior parte dei casi la parola fisica, per esempio, non evoca, non so, le cose positive. Cioè, grazie alla fisica io posso andare a fare un attacco, una risonanza magnetica, senza che il chirurgo mi debba operare, mi debba aprire per scoprire se c'è qualcosa che non va. Invece fisica è sempre associata a che cosa? Alla bomba atomica, alle radiazioni, alle cose negative. Cioè, basta, è ora di cambiare questo stereotipo. Gli stereotipi vanno abbattuti. La fisica spiegata alle ragazze, sì. Poi la fisica del Miao, la sì. fisica del Bao, sono tutti libri da te scritti. Cosa hai cercato di, se anche vuoi farci qualche esempio, sì. di raccontare in questi libri? Sì, ho proprio cercato di far vedere la fisica sotto un altro punto di vista, un punto di vista che può anche essere divertente. Nella fisica del Miao e del Bao ho intervistato gli animali, proprio con botta e risposta, li ho intervistati per farmi spiegare da loro come riescono a sopravvivere grazie alla fisica. Il pesce che va su e giù lo fa grazie alla legge di Archimede. La giraffa, che ha un cuore fortissimo, che deve pompare e lottare contro la forza di gravità, può avere problemi di pressione, ma tutto legato alla fisica. Nella fisica, cavolo, la giraffa non ci ho mai pensato, il cuore sì. In alto, quindi esatto, bisogna pompare da morire. Sì, perché deve far scorrere sangue dalla zucca, dall'alto fino alle zampe, e le zampe hanno delle fibre nella pelle particolare sì. in modo che non scoppino per la ma pressione io elevata. Io ho sempre avuto questa curiosità, no? Sì. Perché i motociclisti, l'avranno tutti, insomma, però perché quando piegano in curva sì. Si sbilanciano verso l'interno della curva in un sì. modo che sembra sì, non si sa come fanno a stare in piedi. Sì, perché devono compensare la forza centrifuga che tende a spingerli all'esterno, fuori dalla loro traiettoria, e la forza centripeta che spinge verso l'interno. Quindi è tutta una questione di bilanciamento di forze per poter curvare e senza perdere in velocità. Quindi spostano il baricentro verso il centro, esatto. anziché verso l'esterno. Monica, Festival della Scienza sì. fino al 4 novembre a sì. Genova, ci sono tanti appuntamenti, chi è interessato basta andare sul sito. Io però vorrei chiederti questo, una motivazione in 20 secondi, perché uno dovrebbe studiare fisica, oltre a tutte le belle cose che hai detto, spaccarsi la schiena sui libri se poi dopo non si trova lavoro? Insomma, spaccarsi la schiena sui libri serve per imparare un sacco di cose, trovare nuove alternative, nuove visioni e farsi, con un pizzico di creatività, magari inventarsi un nuovo lavoro, qualcosa che prima non c'era. Grazie, bellissimo, ci fermiamo qua. Grazie anche a Monica Marelli. Io ringrazio Giorgio De Luca per l'assistenza in redazione oggi, Franco Piantanida e Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Valeria Bernardi in regia con Si può fare. Ci ritroviamo domani a mezzogiorno. Buona giornata.